L'altra Europa. Buona giornata e ben ritrovati da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa, l'appuntamento del weekend con l'Europa che ci piace, con l'Europa che cammina, con l'Europa che cresce, con l'Europa delle opportunità e delle possibilità. La quotidianità politica ed economica europea viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi nel weekend cerchiamo anche altri punti di vista. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo euronetplus.eu, il portale che vi consiglio di visitare perché ci sono tante inchieste, tanti dossier, tanti approfondimenti in tante lingue diverse. Poi ci sono le coordinate per incrociarci sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, sia su Twitter sia su Facebook e social, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, il viaggio da cui partiremo oggi è un viaggio globale, un viaggio europeo. Ci stiamo avvicinando alle elezioni del prossimo mese, alle elezioni europee, e oggi partiamo proprio da quello, dall'euroscetticismo. Ma colère n'est pas un vice, car elle combat toutes les haines. Ma colère aime la tolérance, ma colère ne triche jamais. Ma colère fait la différence entre une cause et ses effets. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Hey Yannick Noah, tennista, glorioso tennista francese che ora si è dato anche alla musica con questa canzone denuncia la sua rabbia contro il populismo, contro l'estremismo, canzone che sta facendo molto discutere in Francia. E con questa canzone diamo il benvenuto a Marco Incerti, ricercatore del CEPS, Centro di Studi Europeo Indipendente a Bruxelles, autore di un ottimo saggio pubblicato sul sito politicheeuropee.it intitolato La crescita dei partiti euroscettici, molto rumore per nulla. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Si parla di elezioni, ci stiamo avvicinando e ovviamente quando si parla di elezioni si affronta da tanti punti di vista diversi l'argomento, la campagna elettorale in corso, siamo anche in par condicio, quindi tenteremo di fare una riflessione sopra le parti. Non parleremo tanto di partiti quanto del grande partito che pare non voglia andare a votare, quindi si parla di astensionismo, ma si parla anche di euroscetticismo che sembra che sia la ventata appunto presente in Europa oggi. Tu contesti un po' questa tesi nel tuo testo, qual è la reale realtà? Beh, più che altro io contesto il fatto che si parli appunto di un grande partito dell'euroscetticismo, nel senso che non si tratta di un partito unico, non si tratta di partiti nazionali che appartengono a un gruppo europeo che ad oggi non esiste, quindi è vero che ci sono questi movimenti, è vero che c'è la colère che monta in diversi paesi, però è un fenomeno ancora molto frammentato e sul piano europeo per poter lavorare e far cambiare le cose nell'ambito del Parlamento europeo bisogna lavorare insieme ad altri e alcuni di questi partiti non sono disposti a farlo. Mm-hmm. Un mese politicamente è tanto, ma è anche poco. Chissà se sarà un mese decisivo per convincere gli europei, i cittadini europei ad andare ai seggi, questo lo scopriremo via via. Questi partiti che credono e comunque fanno leva sull'euroscetticismo, secondo te faranno davvero la differenza in queste elezioni? Ma intanto sì, un mese è molto poco, questa è la terza elezione che io seguo a Bruxelles e come al solito ci si sveglia uno o due mesi dal voto e ovviamente soprattutto dato che si parla di un gruppo di 28 stati membri è spesso troppo tardi per far cambiare rotta a questa grande nave dell'Unione Europea, insomma. E questo riguarda anche l'altro tema che tu sottolineavi dell'astensionismo che purtroppo è sempre in crescita dal 1979, da quando si elegge il Parlamento direttamente, il numero degli astenuti è sempre cresciuto. Questa volta paradossalmente c'è chi dice che proprio i partiti euroscettici contribuiranno a portare più persone alle urne sia per proteste sia magari per reazione, per cercare di impedire un successo di questi partiti. Faranno una differenza in termini mediatici? Sì, senz'altro ci sarà molta attenzione. Alcuni partiti in Francia in particolare, che sono molto estremi, avranno un grande risultato, ma sul piano aggregato del Parlamento europeo è improbabile che facciano una grande differenza. Proprio per quello che dicevo prima, che non sono partiti che lavorano insieme, non sono partiti che appartengono ad una famiglia politica europea. È un no all'Europa o è un no a questa Europa? Qual è la tua sensazione? Intanto direi che anche no, è un no in alcuni paesi, a cominciare dal nostro, è anche un no ad una certa classe politica, quindi c'è molta insoddisfazione nei confronti dei dirigenti che sono spesso visti come appartenenti ad un'unica casta, per citare il famoso libro, ma non solo in Italia, in Francia è lo stesso, in altri paesi è lo stesso. Quindi c'è questo elemento di insoddisfazione di fondo su cui poi si instaura un no a questo tipo di Europa, per rispondere alla domanda, non è all'Europa in quanto tale, ma soprattutto in alcuni di questi partiti il punto è la critica verso il tipo di politiche che sono state nella loro percezione propugnate dall'Unione Europea. È periodo di sondaggi ovviamente e di previsioni, non entriamo in questo ginepraio. Voi come centro studi però avete fatto qualche scenario di quello che potrebbe accadere dopo il 25, dopo il 26 maggio? Sì, non solo noi, appunto tutti ovviamente concentrano l'attenzione. Appunto il messaggio principale è che ci saranno le due grandi famiglie politiche del centrodestra e del centrosinistra, il Partito Popolare Europeo e i Socialdemocratici, che vinceranno le elezioni. Saranno questi due gruppi ad avere il più alto numero di deputati, senza dubbio e di gran lunga. Quindi loro saranno quelli che vincono le elezioni, le forze politiche tradizionali. Sì. Per quanto riguarda gli euroscettici, come dicevo, l'impatto sarà molto dal punto di vista simbolico, un messaggio politico spiacevole, ma dal punto di vista numerico, della taglia di eventuale rappresentanza di questi partiti in Parlamento, si parla di fenomeni abbastanza ristretti. È quasi un 10-1 rispetto al Partito Popolare Europeo, per esempio, che sarà probabilmente più grande. Il Partito Popolare Europeo avrà quasi 10 volte tanti deputati quanti alcuni di questi gruppi euroscettici, e considerato anche che alcuni di questi gruppi non sono ancora formati, si parla del fatto che potrebbero venire formati. Certo, quindi insomma siamo ancora a livello di chiacchiere. E la crescita dei partiti euroscettici, molto rumore per nulla, questo è l'articolo, questa è l'analisi di Marco Incerti, abbiamo già pubblicato il link sulle nostre pagine Twitter e Facebook. Grazie davvero Marco, ci ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane qui all'Altra Europa. Ciao e buona giornata. Grazie, buon lavoro. Adesso un euro post-it, poi le informazioni per chi sta viaggiando, è ancora qua con l'Altra Europa. Euro post-it. Chi sarà il prossimo presidente della Commissione europea? Il dibattito dell'anno è su Radio 24. Siete interessati ad ascoltare le opinioni, le proposte e le idee dei quattro candidati alla presidenza della Commissione europea? E vorreste capire meglio chi sono? Radio 24 ve ne dà la possibilità. Il 29 aprile, a partire dalle 14.30, trasmetterà in diretta sul sito www.radio24.it il dibattito organizzato a Bruxelles dal network Euronet Plus, di cui la nostra emittente fa parte. I candidati Jean-Claude Juncker, José Bové, Martin Schulz e Guy Verhofstadt dovranno rispondere alle domande dei corrispondenti da 15 città in tutta Europa. Per conoscere meglio l'iniziativa, radio24.it, oppure ascoltate ogni giorno Europa 24 alle 14 alle 21.30 su Radio 24 e ovviamente l'Altra Europa. L'Altra Europa. Preparato, credibile, responsabile, presente, poliglotta, qualificato. Chi, cosa, come, dove e quando? Sono questi i 5 punti di appello Europa, proposte per un'Europa giovane. L'appello lanciato in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo da giovani italiani a Bruxelles. Per capire di cosa si tratta abbiamo con noi Francesca Romana Minniti, che è cofondatrice del gruppo, di questa iniziativa indipendente volta a chiedere politiche concrete per i giovani italiani, e per fortuna non solo italiani. Ciao Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, un appello chiaro, un appello ben definito, un appello che si sviluppa in questo periodo, appunto, che ci accompagna alle elezioni. Cosa chiedete e come lo chiedete? Dunque, l'appello europeo è stato lanciato ieri e fa circa... abbiamo lanciato il primo punto, che si chiamava Parlamentare Key, con un video un po' ironico, una specie di trailer. Sì. Probabilmente avete visto, che comunque potete vedere sul nostro sito. Sono tante mani che davanti a luoghi simbolo di Bruxelles e del Parlamento europeo si chiedono ma quali sono le caratteristiche che un parlamentare, in particolare un europarlamentare, dovrebbe avere, e abbiamo tirato fuori questi aggettivi: preparato, qualificato, credibile, presente, poliglotta e responsabile. Questo perché ci è sembrato che ci fosse la necessità di ribadire quanto sia importante la preparazione per rappresentare i cittadini al Parlamento europeo. Mm-hmm. Molto non si sa, non si conosce delle elezioni europee, perché se ne parla poco, parla in modo forse troppo strumentalizzato, in Italia soprattutto. Certo. Un giovane italiano di Bruxelles che è attivo ormai come gruppo da un anno e mezzo, che aveva cominciato con le elezioni nazionali l'anno scorso e che a maggior ragione per le elezioni europee si trova in una posizione diciamo privilegiata, perché noi siamo qui, siamo a Bruxelles, nella capitale d'Europa, abbiamo detto forse è il caso di radunare un po' di idee e di pensieri riguardo a quello che siamo e vediamo nell'arena politica internazionale soprattutto, e cercare di spiegare come dovrebbe essere il nostro parlamentare tipo e come dovrebbe essere il nuovo Parlamento, perché è importante andare a votare, che cosa è per noi l'Europa oggi. Certo, quindi il chi, parlamenti europei più presenti e più preparati, il cosa, priorità le politiche giovanili per sconfiggere la disoccupazione, il come, con un'Italia più trasparente, capace di usare i fondi europei, il dove, promuovere una mobilità europea non di sola andata, e il quando, ovviamente, le elezioni europee tra il 22 e il 25 maggio, perché ci sono date diverse da nazione a nazione. E, Francesca, voi rappresentate i giovani italiani, però sono poi istanze, sono poi richieste valide per tutti i giovani d'Europa. Qual è il polso della situazione da Bruxelles, però, quindi dal cuore dell'Europa? C'è attesa per queste elezioni? C'è timore che ci possa essere una delusione, quindi poca affluenza, quindi poca voglia di Europa? Io credo che si parla tanto di euroscetticismo, ma forse anche in questo caso se ne parla con una lente, diciamo, sbagliata, nel senso che non si spiega da dove proviene questo euroscetticismo, e molto spesso anche gli euroscettici stessi usano degli slogan un po' scontati, diciamo. Quello che non si capisce dell'Europa spesso si accusa facilmente, si dice no, ma questo l'ha fatto l'Europa, questa è una cosa cattiva, e invece quando l'Europa fa delle cose interessanti e positive, come per esempio mi viene in mente il programma Erasmus per sì. I giovani, invece se ne lodano gli effetti e i grandi meriti. Noi crediamo, e quello che abbiamo visto, perché abbiamo incontrato veramente tanti giovani, da Bruxelles passano tantissimi giovani italiani, molti dei quali disoccupati, in cerca di fortuna, in cerca di lavoro, molti poi vanno a Londra, vengono da Londra, vanno a Berlino, insomma ci sono tanti giovani in mobilità, e noi crediamo che la maggior parte di questi siano assolutamente pro-europei, perché noi facciamo parte di quella generazione Europa, generazione Erasmus la chiamano. Allo stesso tempo però stiamo soffrendo di quelle che sono le problematiche di questa realtà attuale, cioè la crisi economica, la mancanza di opportunità lavorative appunto un mercato del lavoro che non riesce a sbloccarsi, ecco. Certo. Giovanebruxelles.org è il sito per conoscere l'intero appello e le proposte anche concrete che fate, oppure la pagina Facebook, facebook.com Giovani Italiani a Bruxelles. Ciao Francesca, grazie davvero e buona Pasqua. Andate a votare. Ci andiamo. Ciao. Europostet. SVE per tutti. Volete partire per un servizio volontario europeo in Albania, Romania o Polonia? L'Associazione Culturale Strauss cerca volontari per diversi progetti, che vanno dai 2 ai 10 mesi. I temi principali dei progetti sono la consapevolezza europea, la consapevolezza delle differenze culturali, economiche ed educative in Europa, la discriminazione, l'handicap. Le scadenze variano dal 20 al 30 aprile, per cui affrettatevi e andate sul sito dell'associazione archistrauss.it. Se vogliamo sapere quanto pesiamo, basta salire sulla bilancia e vedere cosa indica. Ma conoscere il peso di ogni Stato membro dell'Unione Europea non è altrettanto facile. La Finlandia, per esempio, dal punto di vista geografico è abbastanza grande, ma a livello demografico o di influenza politica il suo peso diventa molto più limitato. Quello che state ascoltando è uno dei tanti documentari caricati sul sito balcanicaucaso.org per il progetto BU, un progetto importante che vuole contribuire a rafforzare la cittadinanza europea anche, ma non solo, in vista delle elezioni, facendo informazione e stimolando il dibattito sulle attività e le scelte del Parlamento. balcanicaucaso.org/BU per vedere i tanti documenti preparati e pubblicati sul sito, davvero per scoprire un'Europa diversa e per avvicinarsi anche in modo diverso a queste elezioni. Del progetto ne parliamo con Francesca Vanoni, direttrice progetti di Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Un progetto importante che comprende 7 media partner europei: Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Romania, Slovenia e ovviamente Italia, le nazioni coinvolte. Qual è il focus del progetto? Noi vogliamo aiutare a comprendere il funzionamento delle istituzioni europee in vista ovviamente delle elezioni di maggio, ma anche oltre, perché poi tra ottobre e novembre verrà costituita la nuova commissione, e vogliamo sottolineare la loro rilevanza sulla vita quotidiana dei cittadini, che a volte è poco percepita o poco compresa. Sottolineiamo cioè la centralità del Parlamento, in particolare nell'affrontare questioni che i singoli Stati non sono più nella condizione e tra l'altro non hanno più le competenze per affrontare, tenendo presente che il Parlamento europeo è l'unica istituzione sovranazionale al mondo democraticamente eletta e che porterà dei rappresentanti in un Parlamento che rappresenta mezzo miliardo di cittadini. Certo, adesso stavo sfogliando la pagina dedicata sul vostro portale a questo progetto. C'è una parte relativa alle breve, un po' block notes, un po' di appunti in vista delle elezioni, per esempio quanto pesano i singoli stati, abbiamo sentito un estratto poco fa, oppure il Parlamento europeo, le elezioni dei social media. Scopro ora leggendo che ci sono ben 12 piattaforme social lanciate dal Parlamento in vista delle elezioni. Poi ci sono invece degli approfondimenti anche relativi ai singoli stati, cosa sta accadendo in Grecia, cosa sta accadendo in Romania. Quindi un po' l'Europa delle persone, un po' l'Europa delle istituzioni, questo doppio binario. Sì, è così. Vorremmo che queste elezioni, il Parlamento europeo usa questo slogan per questa campagna elettorale, questa volta è diverso. Noi vorremmo che queste elezioni fossero diverse in primo luogo perché avremmo voglia di parlare di questioni europee, ovvero che la campagna elettorale non fosse un mero riflesso della politica interna degli Stati membri, perché far parte dell'Unione Europea non è solo condividere, diciamo, una condivisione di valori, le regole democratiche, la risoluzione pacifica dei conflitti, la tutela dei diritti, eccetera. Si tratta di temi anche molto concreti. Sono le istituzioni europee che legiferano su temi quali l'energia, l'ambiente, la circolazione dei beni e delle persone, gli OGM, certo, la sicurezza alimentare, la salute, i diritti dei consumatori, veramente tantissime materie di cui abbiamo quasi poca percezione, nel senso che queste istituzioni sono fondamentali nella vita di tutti i giorni e paesi più piccoli o più periferici, come appunto quelli che noi copriamo con questo progetto, che sono in totale 6 paesi membri, quelli che hai citato all'inizio, sono marginali, ma fino a un certo punto, nel senso che voteranno le risoluzioni e le leggi che poi avranno un impatto diretto sulla vita di tutti noi, e quindi bene conoscerli, bene sapere che in Grecia Alba Dorata sta probabilmente nei sondaggi intorno all'8%, che è un partito di estrema destra. Bene sapere che uno dei candidati alla Commissione europea è un greco, che è Tsipras. Certo. E quindi conoscere come la pensano, che cosa voteranno, cosa saranno a favore, con chi si apparenteranno nelle famiglie politiche dei partiti europei, eccetera. Tante sfumature di questa Europa ben raccontate, ben narrate. balcanicaucaso.org/BHEU, link che abbiamo già pubblicato anche sul nostro Twitter e sul nostro Facebook. Grazie davvero Francesca a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a voi, auguri. Buona giornata e buona Pasqua. Ci fermiamo un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Dibattito tra i candidati e Stato dell'Unione. Lo European University Institute di Firenze organizza per il 9 maggio l'edizione 2014 della conferenza internazionale The State of the Union, che quest'anno vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, del Commissario europeo per il commercio Karel de Gucht, del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Senatore Mario Monti. In questa occasione, al Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, si terrà anche un nuovo dibattito tra i quattro candidati alla presidenza della Commissione europea: Jean-Claude Juncker, del Partito Popolare Europeo, PPE, Martin Schulz, del Partito Socialista Europeo, PSE, Guy Verhofstadt, dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, ALDE, e José Bové, del Partito Verde Europeo, PVE. I candidati risponderanno alle domande di Tony Barber, Europe Editor del Financial Times, Monica Maggioni, direttrice di Rai News 24, e J.H.H. Whaler, presidente dell'Istituto Universitario Europeo. Per tutte le informazioni sull'evento, che verrà trasmesso anche in diretta streaming e TV sui canali Rai, stateoftheunion.ewi.eu. L'altra Europa. Of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world! I see skies of blue. Ben tornati all'altra Europa, sempre Radio 24, sempre l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità e l'Europa della cultura che ci piace raccontare, che ci piace narrare. Quello che state ascoltando è Placido Domingo, presidente, lo abbiamo scoperto, non lo sapevamo, di Europa Nostra, e parliamo proprio di questa importante associazione. Perché? Perché qualche settimana fa sono stati annunciati i vincitori dell'edizione 2014 del premio dell'Unione Europea Europa Nostra, premi che verranno poi dati, consegnati durante una cerimonia di premiazione il 5 maggio a Vienna. Sono 27 vincitori in tutta Europa, ci sono anche 4 progetti italiani, un riconoscimento importante di chi crede a livello europeo nella cultura. E di tutto questo abbiamo il piacere di parlarne con il segretario generale di Europa Nostra. Diamo il benvenuto alla signora Zneska Gwatlik-Mialovic, con la quale già mi scuso per la pronuncia del suo nome. Salve signora. Perfetta pronunciazione. Grazie segretario, grazie anche per aver accettato il nostro invito. Che cos'è Buongiorno Europa? Dell'Aia di Olanda. Lei? Ah, ok, perfetto. Che cos'è Europa Nostra? Europa Nostra è la federazione europea delle organizzazioni non governativi che si occupano della salvaguardia del patrimonio culturale in Europa. E noi vogliamo dire che siamo la voce di patrimonio culturale di Europa, e Placido Domingo abbiamo già sua voce abbiamo ascoltato, e il presidente della nostra organizzazione. E l'organizzazione esiste 50 anni e siamo anche orgogliosi che la madre di Europa Nostra è Italia Nostra, un'associazione italiana molto importante, e Italia Nostra con altre associazioni di tutte parti d'Europa ha deciso in 1963 di creare una rete europea per la salvaguardia di patrimonio culturale in Europa. Tra le tante iniziative di cui poi ne parleremo, anche delle due principali, c'è questo premio in collaborazione con la Commissione europea. Tra i progetti italiani per la categoria conservazione c'è la Basilica Palladiana di Vicenza, il Teatro Sociale di Bergamo, la Casa Tronchi di Antica Cultura Valser di Alagna Valsesia Piemonte. Quali sono le caratteristiche dei siti, dei monumenti che cercate di premiare in tutta Europa? Sì, tutti questi siti sono molto vari, però una cosa che unisce tutti questi siti è l'eccellenza e sì, la alta qualità di conservazione, di carattere esemplario, di impegno per la salvaguardia di patrimonio. E questi progetti sono grandi progetti come la Basilica Palladiana di Vicenza o un patrimonio culturale che è più un'architettura più semplice come le case della Valle d'Aosta, la Casa Valser. Però tutti questi progetti di conservazione sono fatti con alti standard di conservazione, con la salvaguardia del materiali tradizionali, anche delle strutture tradizionali, e questo è una cosa che Europa Nostra con l'Unione Europea, con la Commissione Europea vuole promuovere a livello europeo. Noi vogliamo promuovere, come noi diciamo, the power of example, la qualità delle buone realizzazioni a livello dell'Europa e aiutare agli europei, associazioni, anche organizzazioni e anche i governi in tutta l'Europa di trovare l'ispirazione e l'energia per fare di più nel futuro. Certo, quindi essere anche stimolo propositivo. Ci sono due campagne a cui tenete molto, due campagne in atto. Una riguarda una nuova narrazione dell'Europa. Di cosa si tratta? Questa è una bella iniziativa, è una importante iniziativa, e questa iniziativa è venuta del Parlamento europeo, sì, e specialmente di Presidente Barroso della Commissione europea. E si tratta di un'iniziativa per mobilizzare le donne e gli uomini del mondo della cultura, del spettacolo, artisti, anche scienziati, tutti di essere più attivi in dibattito sul futuro, sul presente e il futuro dell'Europa. È anche una sensibilizzazione di tutti gli europei che il racconto di Europa non è un racconto puro economico, certo, è un racconto basato su una cultura formidabile, una cultura diversa però anche unita di tutta Europa, e questo è il vero cuore del tutto il progetto europeo, il processo dell'integrazione europea. E io aveva grande piacere di fare parte di un gruppo che ha lavorato con Presidente Barroso, e anche in dicembre a Milano abbiamo fatto un incontro importante con l'ex primo ministro Letta per promuovere questo nuovo racconto. E anche c'è un altro italiano molto famoso, è Michelangelo Pistoletto, mm-hmm, è anche un membro di questo gruppo che lavora su questa nuova narrazione. E il primo marzo di quest'anno in Berlino abbiamo presentato un testo e il presidente Barroso e anche Angela Merkel erano presenti a Berlino. Però abbiamo detto che l'Europa è primo uno stato mentale e una responsabilità morale e politica che deve essere condivisa da tutti i cittadini europei. Questa è una cosa di noi, di cittadini europei, non è solo una cosa dei politici o delle istituzioni di Europa. Certo, insomma, siamo tutti. Europa è basata sul valori, valori culturali che condividiamo certo. In Europa. Insomma, è ogni cittadino deve essere protagonista di questa narrazione, di questa nuova cultura europea. In sintesi, invece, il secondo progetto, sette monumenti, sette siti a rischio in Europa. Dobbiamo difendere tutti insieme, non solo istituzioni, perché noi cittadini di questi valori, e questi valori sono primo e soprattutto valori culturali. La seconda campagna, invece, la seconda iniziativa riguarda sette monumenti che sono a rischio, sette monumenti europei, giusto? Sì. Questo è una nuova iniziativa, l'abbiamo lanciato l'anno scorso quando abbiamo celebrato i 50 anni della nostra attività. E questo l'abbiamo lanciato in collaborazione con l'Istituto della Banca Europea per gli Investimenti. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di fare di lanciare ogni anno una lista di sette siti più a rischio in Europa. E questo è un strumento anche di mobilizzazione. Noi non abbiamo un grande fondo con milioni di euro a nostra disposizione, però abbiamo la forza della convinzione, la forza della comunicazione, e con questo programma vogliamo che tutti i partner locali, a livello locale, nazionale, europeo, insieme lavorano per salvare questi siti. E per esempio sì. L'anno scorso la prima lista di siti aveva anche un sito italiano. Quale? E questo è la monastero rinascimentale di San Benedetto Po, vicino a Mantova. Okay. E questo monastero, un bellissimo monastero, era danneggiato del terremoto di maggio di 2012, sì. E adesso il comune, il piccolo comune di San Benedetto Po ha bisogno di aiuto a tutti i livelli, regionale, nazionale e anche europeo, per la restaurazione di questo meraviglioso monumento europeo danneggiato. Però anche un altro esempio è la città di Nicosia in Cipro. Mm-hmm. La città di Nicosia è una città capitale di un Stato membro dell'Unione Europea, però oggi c'è un buffer zone, c'è anche sempre una città con una divisione in due parti. Assolutamente. Noi lavoriamo per la revitalizzazione di questa buffer zone di Nicosia, che è piena di monumenti bellissime, e questo deve essere un simbolo di rinascita di unione e di pace. Segretario, grazie davvero per averci illustrato le tante attività. Il 5 maggio l'appuntamento in cui verranno assegnati ufficialmente i premi, ma sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa nei prossimi mesi per parlare ancora di tutto quello che fate. www.europanostra.org il sito per tutte le informazioni. Buona Pasqua! Sì, grazie, e posso anche invitare i vostri ascoltatori per anche votare per il progetto del cuore. Tutta gente, tutti i cittadini possono votare per questo premio della giuria popolare, e si può votare fino al 22 di aprile via il sito internet di Europa Nostra. Perfetto, grazie ancora, buona giornata. Mille grazie. Europostit. Racconta la tua prima volta con Il mondo del lavoro. Hai paura? Non sai come comportarti? Non sai cosa succederà dopo? Racconta quello che pensi possa essere la tua prima volta nel mondo del lavoro, le ansie e le preoccupazioni che comporta, attraverso un video o qualche foto. Potrai vincere un premio per ogni categoria. Possono partecipare studenti del triennio delle scuole superiori, studenti universitari e neolaureati. Il concorso è organizzato in occasione della Giornata Nazionale della Previdenza a Milano dal 14 al 16 maggio. Per saperne di più, andate su giornatanazionaledellaprevidenza.it. Promuovere la cittadinanza europea attiva, questo è lo scopo del programma Europa per i cittadini, esperienza confermata anche per il periodo 2014-2020, e tanti fondi a disposizione per tante iniziative sulla carta importanti e che possono essere anche una bella boccata d'ossigeno per chi è attivo nel territorio, le associazioni, le cooperative che mettono la cultura al centro, e torniamo anche noi a mettere questa parola al centro di quella che è l'Europa, che ci piace. Di tutto questo ne parliamo con Rita Sassu, referente per il punto di contatto Europa per i cittadini del Ministero dei Beni Culturali. Salve Rita, benvenuta all'Altra Europa. Salve, buongiorno. Abbiamo parlato tanto di cittadinanza attiva lo scorso anno, quando era l'anno dei cittadini, e continuiamo a parlare di Europa e cittadini. In sintesi, che cos'è il programma Europa per i cittadini? Allora, il programma Europa per i cittadini è un programma di finanziamento che ha come scopo principale quello di avvicinare i cittadini all'Unione Europea. Quindi serve a cofinanziare una serie di idee progettuali che servano da un lato a contribuire alla comprensione della storia europea. A partire da quest'anno ci sarà un grande focus su tutta la storia del XX secolo, e dall'altro a promuovere la cittadinanza europea attiva, quindi la partecipazione civica, i processi democratici. Quindi sarà un programma che sarà articolato in due strand fondamentali: uno strand 1 dedicato alla memoria storica e un secondo strand dedicato specificatamente alla cittadinanza europea, alla partecipazione dei cittadini al processo democratico di integrazione europea. Allora Rita, queste sono le macro coordinate, ci fermiamo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo a te per dirci in pratica dove trovare le informazioni e come muoversi per accedere a questi finanziamenti. L'altra Europa. Eccoci qua di nuovo insieme a Rita Sassu, referente per il punto di contatto Europa per i cittadini del Ministero dei Beni Culturali. Quando si parla di questo programma Europe for Citizens, si parla, per dare anche idee concrete di quelli che sono i gemellaggi tra le città, le reti tra le città, tutti quei progetti che cercano di rendere i cittadini protagonisti del proprio territorio e non solo. Il programma si avvale di un'ottima assistenza, c'è proprio un info point, vero Rita, a cui ci si può rivolgere per tutte le informazioni e per essere accompagnati nell'accedere a questi finanziamenti. Sì, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha istituito il punto di contatto Europa per i cittadini, che ha proprio come scopo quello di aiutare tutti coloro che sono interessati a partecipare ai bandi del programma Europa per i cittadini a individuare il bando più adatto alla propria idea progettuale, alle proprie caratteristiche, e poi accompagnare nella stesura del programma di lavoro, del modulo di candidatura, dei vari allegati, quindi di assistere il potenziale beneficiario delle sovvenzioni del programma Europa per i cittadini fino al momento dell'invio della candidatura alle ACEA di Bruxelles. A questo scopo è attivo sia un help desk telefonico che può essere contattato il mercoledì o il venerdì, c'è un'assistenza via email garantita tutti i giorni, ovviamente si possono prenotare appuntamenti in sede presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali per ricevere tutto il supporto nel momento in cui si decide di partecipare a uno dei bandi del programma Europa per i cittadini. Europacittadini.it è il sito di riferimento, se non erro. Ci puoi fare qualche esempio, al di là dei gemellaggi tra città, che è una delle cose più note, proprio un paio di esempi di cosa di questi bandi, che sono veramente molto variegati, sono variegate le possibilità di accesso? Sì. Allora, tutte le informazioni si trovano sul sito, come abbiamo appena detto, www.europacittadini.it, presso il quale all'inizio di maggio sarà riversata la guida al programma, contenente proprio la descrizione dettagliata dei bandi e quindi le modalità di partecipazione e quindi anche le modalità pratiche di inoltre della candidatura. Ci saranno 4 bandi principali, un primo bando dedicato specificatamente alla memoria storica, in cui si potranno presentare dei progetti che riguardano o il nazismo, o il fascismo, o lo stalinismo, o i regimi totalitari in generale, oppure delle tematiche connesse alle priorità stabilite per il 2014, che sono la prima guerra mondiale, la caduta del muro di Berlino e l'allargamento dell'Unione Europea. Quindi nell'ambito di questo primo bando è possibile richiedere delle sovvenzioni da parte di enti non a scopo di lucro, di università, di enti di ricerca, municipalità, province, regioni, fino a 100.000 euro. Abbiamo poi i bandi tradizionali dedicati invece al gemellaggio fra le città, in cui possono essere presentati progetti afferenti appunto alla promozione della cittadinanza europea attiva e che possono, qualora lo ritengano opportuno, parlare anche delle elezioni del Parlamento europeo, del futuro dell'Unione europea, oppure di come migliorare la partecipazione dei cittadini alla vita politica dell'Unione europea. Sì. Questi temi possono essere considerati quindi dei progetti di gemellaggio. Ve ne saranno 2 tipologie, una più piccola chiamata proprio gemellaggio fra città e una più grande con un budget maggiore fino a 150.000 euro chiamate reti di città, e poi avremo un bando dedicato a tutto il mondo del no profit, delle organizzazioni non a scopo di lucro, che si chiamerà progetti della società civile, la cui scadenza per ora è fissata a settembre, laddove per gli altri bandi abbiamo una scadenza prima prevista per il 4 giugno, ancora da confermare. E questi 4 saranno, diciamo, i bandi principali che saranno aperti nel corso dell'anno presente, del 2014. Benissimo. Rita, grazie davvero per questa sintetica fotografia, ma anche con te magari ci ritroveremo nelle prossime puntate per entrare un po' nel dettaglio e magari veramente prendere per mano associazioni, gruppi, amministrazioni che abbiano desiderio di accedere a questi finanziamenti e possiamo orientarli nel migliore dei modi. Grazie davvero anche a te e buona Pasqua. Ciao. Grazie, buona Pasqua, arrivederci. Vicino al pozzo di Santa Pazzia c'è una pazza che lava una pezza, dico un pazzo con un pezzo di pizza, dice alla pazza ne vuoi un pezzo? Sciogli lingua, perché? Perché la cultura europea si può fare anche attraverso i giochi di parole, e questo lo ha dimostrato benissimo Emiliano Biagio Manzillo, che è docente, traduttore, autore teatrale, da 11 anni vive in Belgio, lui napoletano, ed è stato curatore del progetto Binario 2, spettacolo teatrale che appunto è andato in scena in quel di Anversa. Ciao Emiliano, benvenuto all'Altra Europa. Salve a tutti, salve. Intanto cosa ci fai lassù da quelle parti? Sì, io ho studiato neerlandese quando ero in Italia, mi sono trasferito già nel 2003 in Belgio, quindi era una scelta che stavo meditando già dalla tarda adolescenza. Sono stati sempre dei posti che mi hanno attirato, sia come cultura, sia come modo di vivere, soprattutto come rispetto delle persone, e quindi è stato un po' naturale trasferirsi lì dopo gli studi. Mm-hmm. Tu collabori con il circolo di Anversa della scuola Dante Alighieri, e al di là dello spettacolo che ha avuto successo, c'è un fortissimo interesse, non so se da sempre o se adesso è un momento particolare, nei confronti della lingua italiana. Come mai? Da dove nasce questa vicinanza? Sì, una piccola puntualizzazione: la Dante Alighieri non è una scuola, ma un'associazione che protegge a livello mondiale la cultura e la lingua italiana. Sì. Ha vari circoli in tutta Europa, in tutto il mondo, anche in Italia, e si occupa di mostrare il meglio della nostra cultura e di aprire dibattiti che riguardano la situazione politica, sociale, ma soprattutto artistica dell'Italia. Per quanto riguarda il Belgio, c'è sempre stato un fortissimo interesse nei confronti dell'Italia, non solo per la migrazione degli anni 40 e 50 nelle miniere dell'est del Belgio, ma poi questo interesse è continuato, soprattutto perché l'Italia viene vista come la culla della cultura europea dai belgi, e nonostante tutti i problemi, nonostante tutti i crolli tra Pompei, Volterra, veniamo ancora visti come i depositari di una cultura millenaria. Emiliano, guarda, abbiamo veramente poco tempo, ma anche con te rinnovo l'appuntamento in una delle prossime puntate per capire meglio il lavoro che fai. Intanto, la Dante di anversa.blogspot.it, il sito per tutte le informazioni, e ti voglio salutare chiedendoti però una curiosità: qual è la prima cosa che ti chiedono della lingua italiana, o se c'è una domanda ricorrente che ti ha accompagnato in questi anni? Qualche domanda grammaticale, qualche domanda grammaticale più che altro, ecco, perché se ci sono delle regole ben precise per capire come quale articolo scegliere per le parole, ma ecco, viene sempre fatta comunque con un sorriso. I belgi si sono sempre posti in maniera molto aperta nell'apprendimento della lingua italiana, e lo fanno anche perché collegano la lingua a un paese che significa sia sole sia cultura, che significa tante tante tante cose interessanti. Hai imparato anche qualche scioglilingua locale? Sì, è stata l'occasione migliore per farlo, quindi ho scoperto anche io dei lati che non conoscevo, non solo della lingua italiana, ma anche del neerlandese, la lingua che parliamo qui ad Anversa. Ma sarei tentato di chiedertene uno, cioè, lo sai a memoria, uno scioglilingua? The Spanish Prince, prima Spanz, cioè il principe spagnolo parla benissimo lo spagnolo, che è uno degli scioglilingua che poi Luigi Murra e Pasquale Passaretti hanno anche utilizzato nel spettacolo teatrale qui in Belgio. E per esempio i belgi hanno apprezzato tantissimo lo sforzo fatto dagli attori di cercare un legame con la cultura del posto. Grazie davvero Emiliano, complimenti per il bel lavoro, a presto qui all'Altra Europa. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie alla squadra, Margherita Aina e Katia Marinelli, che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleoni oggi alla parte tecnica. Ancora buona giornata e buona Pasqua da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.